Ad alta voce, Paolo Piero Bon legge Le avventure di Gordon Pym di Edgar Allan Poe. Traduzione di Elio Vittorini. Non appena poteri avermi dal mio smarrimento, mi trovai mezzo soffocato ad annaspare fra le tenebre più fitte in una massa di terriccio che ancora continuava a cadere pesantemente da ogni parte su di me, minacciando di seppellirmi del tutto. Spaventato da quest'idea, mi sforzai di rimettermi in piedi e alla fine vi riuscii. Rimasi allora senza muovermi, per qualche minuto cercando di rendermi conto di quello che poteva essermi successo e del luogo dove mi trovavo. Udii allora un profondo gemito venire da vicinissimo al mio orecchio e un momento dopo la voce soffocata di Peters che mi supplicava in nome di Dio di recargli soccorso. Feci vacillando qualche passo innanzi e andai a inciampare proprio nella testa e nelle spalle del mio compagno che, come tosto vidi, si trovava sepolto sino alla cintola sotto una massa di terriccio e disperatamente lottava per tirarsene fuori. Mi misi a scavare tutto intorno a lui con quanta più energia potevo e infine pervenni a trarlo d'imbarazzo. Non appena ci fummo rimessi dallo spavento e dalla sorpresa tanto quanto bastava per essere in grado di ragionare, ci dicemmo l'un l'altro che le pareti della fenditura nella quale ci eravamo avventurati dovevano, per qualche convulsione del suolo, magari per il loro stesso peso, esser franate dall'alto, così che ci trovavamo sepolti vivi, senza più speranza di salvezza. A lungo ci disperammo, in preda al più selvaggio dolore, che nessuno può immaginarsi se non si è trovato in una situazione qual era la nostra, perché di certo non v'è sciagura tra le tante nelle quali può incorrere l'esistenza umana, più di codesta d'esser sepolti vivi, capace di portare sino al parossismo dell'angoscia nel fisico e nel morale. La tetra oscurità nella quale ci si trova avviluppati, la terribile oppressione ai polmoni, le esalazioni soffocanti della terra umida, unite alla sinistra considerazione di essere fuori dai più lontani limiti della speranza, nelle precise condizioni di chi è morto, riempiono il cuore umano d'una pena e di un orrore intollerabili da non potersi concepire. Ma infine Peters si levò a dire che dovevamo sforzarci di stabilire la portata della nostra calamità ed esplorare tastoni la nostra prigione, poiché, soggiunse, non era impossibile che scoprissimo un'apertura per la quale metterci in salvo. Io mi attaccai a questa speranza e cercai di aprirmi una strada in quella massa di terriccio. Ed ecco, appena fatto un passo, un filo di luce giungere sino a me, impercettibile, è vero, ma sufficiente a darmi la certezza che in ogni caso non saremmo periti per mancanza d'aria. Ripreso allora un po' coraggio, ci esortammo l'un l'altro a sperare nel meglio. Inerpicatici su per il cumulo dei detriti che ci ostruivano il passaggio verso la luce, trovammo di là meno difficile avanzare e l'aria meno opprimente. In breve, arrivammo a poter distinguere le cose intorno, cosicché scoprimmo di esserci portati in fondo al tratto della fenditura che si estendeva in linea retta, ossia nel punto in cui essa svoltava verso sinistra. Fatto ancora qualche sforzo, raggiungemmo il gomito e con gioia inesprimibile scorgemmo lontano verso l'alto una lunga spaccatura che si apriva ad angolo con un'inclinazione in genere di 45 gradi circa, sebbene a tratti molto più scoscesa. Non potevamo percorrerla con l'occhio in tutta la sua profondità, ma come la luce vi penetrava in quantità considerevole, acquistammo la sicurezza, purché ci fosse riuscito di arrampicarci sino in alto, di trovare un passaggio verso l'aperto. Allora mi ricordai che eravamo stati in tre ad entrare nella fenditura e che l'altro nostro compagno, Allen, non era con noi, per cui decidemmo di tornare indietro a cercarlo. Dopo lungo cercare, con non poco pericolo, per via della terra che continuava dall'alto a sgretolarsi e precipitare su di noi, Peters mi gridò di aver afferrato uno dei piedi del nostro compagno e che tutto il resto del suo corpo era così profondamente interrato sotto i detriti da non essere possibile tirarnelo fuori. Vidi che quanto egli diceva era purtroppo vero e che di conseguenza il nostro compagno doveva essere morto da un pezzo. Pieni di cordoglio lasciammo dunque quel cadavere al suo destino e ritornammo sui nostri passi sino al punto di prima. La spaccatura era larga, quanto appena bastava a lasciar passare un uomo, e tentato invano un paio di volte di scalarla, ricominciammo a disperare. Ho già detto che la catena di alture attraverso le quali correva il vallone era costituita da una roccia morbida come la steatite, da noi chiamata pietra sapone. Ora, le pareti dell'apertura sulle quali cercavamo di arrampicarci erano della medesima sostanza e per l'umidità riuscivano così sdrucciolevoli che i nostri piedi potevano a stento trovar presa nei punti meno ardui, mentre dove la salita si faceva quasi perpendicolare, la difficoltà naturalmente diventava estrema, tanto che a un certo momento la giudicammo insormontabile. Ma la disperazione ci diede nuovo coraggio e venutaci la felice idea di tagliare coi nostri coltelli degli scalini nella roccia tenera, aggrappandoci, col rischio di ammazzarci, a piccole sporgenze d'una più dura specie di roccia schistosa che di tratto in tratto spiccavano fuori dalla massa generale. Raggiungemmo alla fine una specie di piattaforma da cui si scorgeva, di là da un burrone fitto di bosco, un lembo azzurro di cielo. Volgendoci allora a guardare indietro con più comodo il passaggio per il quale ci eravamo portati tanto innanzi, vedemmo chiaramente, dall'aspetto delle sue pareti, che era di formazione recente, e ne concludemmo che la scossa, di qualunque natura fosse stata, ci aveva aperto proprio mentre ci seppelliva quella via di salvezza. Siccome eravamo stanchi morti per lo sforzo compiuto e così deboli, in vero, da non essere capaci di tenerci in piedi e di pronunciare più una parola, Peters voleva avvertire i compagni che ci venissero a soccorso, scaricando in aria le nostre pistole rimasteci, a differenza dei fucili e delle sciabole che avevamo perduto tra il terriccio in fondo all'abisso, appese alla cintura. Capimmo in seguito come, se avessimo fatto fuoco, ce ne saremmo amaramente pentiti, e però fortuna volle che un vago sospetto affacciatosi in me dell'infame tiro di cui eravamo vittime ci trattenesse dal far conoscere ai selvaggi la nostra presenza in quel punto. Riposatici per un'ora circa, ci mettemmo pian piano a risalire il burrone e non c'eravamo ancora inoltrati che di poco quando un frastuono di urla feroci si levò nella distanza. Arrivammo poi a quella che si poteva propriamente dire la superficie del suolo, poiché dalla piattaforma sino a quel punto la strada era andata svolgendosi su sotto un'altissima volta ininterrotta di roccia e di fogliame. Con circospezione estrema strisciammo allora verso una stretta apertura e la campagna intorno ci si scoprì tutta alla vista, rivelandoci il pauroso segreto dello sconvolgimento del suolo che ci aveva sepolti. Ci trovammo a guardare quasi dalla cima più elevata di quella catena di steatite. La gola nella quale eravamo entrati coi nostri compagni correva a un 50 piedi di là verso sinistra e per almeno 100 yard di lunghezza appariva adesso colma sino all'orlo di pietre e terra in un caotico ammasso di milioni di tonnellate fatte precipitare artificialmente. Il metodo col quale si era provocata l'enorme frana appariva altrettanto semplice quanto chiaro. Dagli indizi che dalla criminosa macchinazione restavano ancora qua e là, lungo la cresta ovest della gola, dirimpetto a noi, si trattava di pioli di legno piantati nella terra. Lì la terra non aveva ceduto, ma tutto l'unco dove aveva ceduto si vedeva, per certi segni come di piccone impressi nel suolo, che dei pioli consimili erano stati piantati a non più di una yarda di distanza l'uno dall'altro, su una linea a 10 piedi circa indentro dall'orlo del precipizio, per una lunghezza di un 300 piedi. Delle solide corde fatte di tralci da vite pendevano dai pioli superstiti, ed evidentemente ognuno degli altri pioli era stato munito di una corda della stessa natura. Ho già parlato della singolare stratificazione di quelle colline, e certo quanto inoltre ho detto dell'angusto e profondo crepaccio attraverso cui eravamo riusciti a salvarci servirà a farne meglio conoscere la natura, per la quale, alla prima convulsione naturale, il suolo doveva spaccarsi in strati verticali, l'uno parallelo all'altro, e così pure al minimo sforzo artificiale. Di questo avevano approfittato i selvaggi per condurre a fine il loro tradimento. Siccome non v'era dubbio che fosse stata operata una parziale frattura del suolo, sino a un piede o due di profondità, grazie a quella linea di pioli, ognuno dei quali, tirato con la corda, legata in punta e lunga abbastanza per arrivare di là alla cresta della collina, da un selvaggio, aveva fatto leva e servito, appena dato il segnale, a precipitare tutta la parete in fondo all'abisso. Il destino dei nostri poveri compagni risultava chiaro. Solo noi eravamo scampati a quella furia devastatrice. Noi due eravamo i soli bianchi rimasti vivi sull'isola. La nostra situazione, quale in quel momento si delineò, non appariva meno terribile di quando ci eravamo creduti sepolti per sempre. Adesso non avevamo altra prospettiva dinanzi a noi che di essere scannati dai selvaggi o di condurre tra essi in prigionia la più miserabile delle esistenze. Potevamo, è vero, sfuggir loro per qualche tempo, nascondendoci tra le balze dell'altipiano o addirittura nel burrone, ma avremmo finito per morire di freddo e di fame durante il lungo inverno polare, o comunque per tradire la nostra presenza nei tentativi di trovare qualche risorsa. Tutta la terra intorno pareva formicolare di selvaggi, di cui, come vedemmo, erano arrivati a bordo di zattere grossi rinforzi dalle isole più a sud, indubbiamente a prestare una mano di aiuto nella cattura e nel sacco della Jane. La nave era sempre all'ancora, in perfetta calma, nella baia, senza che gli uomini a bordo sospettassero nulla del pericolo che li minacciava. E noi fremevamo di non essere in quel momento con essi, fosse per aiutarli nella fuga, fosse per perire tutti insieme nel tentativo di difenderci. Non vedevamo modo di avvertirli del pericolo senza esporci a una morte immediata che non si sapeva se poi sarebbe tornata a loro beneficio. Un colpo di pistola sarebbe certo bastato ad avvertirli che era successa qualche disgrazia, ma non a far loro intendere che per salvarsi bisognava salpassero l'ancora sull'istante, poiché i loro compagni erano tutti morti e non c'era più per essi alcun principio d'onore che li impegnasse a rimanere. Per il fatto di sentire il colpo, essi non potevano venirsi a trovare preparati all'attacco nemico più di quanto già non lo fossero e non lo fossero stati sempre. Come dunque dal nostro sparo non poteva risultare altro che del male per noi e niente di buono per essi, dopo mature considerazioni, decidemmo di astenercene. Ci venne allora l'idea di precipitarci in direzione della nave, impadronirci di una delle 4 canoe ormeggiate in fondo alla baia e così tentare di portarci sino a bordo. Ma l'assoluta impossibilità di riuscire in così disperata impresa divenne ben presto evidente. Tutta la terra intorno a noi, come ho già detto, formicolava di selvaggi che se ne stavano appostati dietro i cespugli e tra le pieghe delle colline per non essere visti da bordo della goletta. E giusto nelle nostre immediate vicinanze, a sbarrarci l'unico sentiero per il quale avremmo potuto sperare di raggiungere la spiaggia al punto opportuno, si teneva tutta la banda dei guerrieri dalle pelli nere, con Towit alla testa, in attesa forse di qualche rinforzo per cominciare l'abbordaggio della Jane. Le canoe stesse, del resto, erano montate da selvaggi, senza armi addosso, è vero, ma che certo dovevano averne di armi a portata di mano. Fummo dunque costretti, volenti o nolenti, a restare fermi nel nostro nascondiglio, semplici spettatori della battaglia che di lì a poco si scatenava. Non trascorse di fatti mezz'ora che una sessantina e più di zatteroni o chiatte che fossero si riempirono di selvaggi e doppiarono la punta sud della baia. A quanto pareva erano armati soltanto di corte clave e di pietre, tutte ammucchiate queste nel fondo delle zattere. Un altro consimile distaccamento, armato allo stesso modo, si avanzò subito dopo dalla parte opposta, e le quattro canoe, riempitesi in un baleno anch'esse di indigeni sbucati fuori dalle macchie giù nel fondo della baia, presero rapidamente il largo per raggiungere il grosso della flottiglia. Cosicché, in meno di quanto ci abbia messo a dirlo e come per magia, la Jane si vide assediata da un'immensa moltitudine di forsennati che si dimostravano risoluti a impadronirsene a qualunque costo. Che avessero a riuscire nella loro impresa non era da porre in dubbio neanche per un istante. I sei uomini lasciati a bordo della goletta, comunque decisi fossero a tener duro, non potevano assolutamente bastare al servizio adeguato dei cannoni e si trovavano sotto tutti i riguardi nell'impossibilità di sostenere una lotta tanto ineguale. Io mi immaginavo che non avrebbero opposto la minima resistenza, ma dovetti ricredermi, poiché li vidi tosto mollare il cavo e volgere a tribordo in modo da portare tutta la bordata sulle canoe che si trovavano in quel momento a tiro di pistola, mentre gli zatteroni potevano essere a un quarto di miglio dal lato di sopravvento. Per una ragione che ignoro, per la confusione forse che dovette prendere i nostri poveri amici a vedersi in una situazione così disperata, la scarica fu un fiasco assoluto. Non una canoa venne colpita, non un selvaggio ferito. Il tiro risultò troppo corto e la scarica passò di rimbalzo sopra le loro teste. Il fumo e la detonazione inattesa produssero ad ogni modo enorme stupore tra i selvaggi. Così enorme che io per un momento quasi credetti di vederli rinunciare alla loro impresa e riguadagnare la riva, cosa che certamente sarebbe avvenuta se i nostri uomini avessero fatto seguire alla loro bordata una buona scarica di fucileria, che non avrebbe mancato, data la vicinanza delle canoe, di avere effetto micidiale, tanto almeno da arrestare l'avanzata della banda e dar loro il tempo di mandare una bordata anche addosso agli zatteroni. In mancanza di ciò, come i nostri corsero a babordo per affrontare l'arrivo degli zatteroni, quelli delle canoe, guardandosi attorno e vedendo che non avevano sofferto nessun danno, si rimisero dal panico. La scarica di babordo produceva intanto l'effetto più terribile. La mitraglia doppia dei grossi cannoni mandò completamente a picco 7 od 8 zattere, uccidendo sul colpo una trentina o forse una quarantina di selvaggi, mentre non meno di un centinaio venivano lanciati spaventosamente feriti, la maggior parte in acqua. Gli altri, persa del tutto la testa, si diedero subito a una fuga precipitosa, senza neanche fermarsi a raccogliere i loro compagni mutilati che nuotavano qua e là da ogni parte, lamentandosi e gridando al soccorso. Codesto bel successo, tuttavia, arrivava troppo tardi per salvare i nostri fedeli compagni. Quelli delle canoe, in numero di 150 e più, erano già a bordo della goletta, siccome erano riusciti in gran parte ad arrampicarsi su per i Regisarti ed oltre le difese di bastingaggio, fin da prima che si fosse dato fuoco con le micce ai cannoni di babordo, nulla più avrebbe potuto fermarli nel loro bestiale furore. E in men che non si dica, i nostri vennero atterrati, schiacciati, pestati sotto i piedi e messi in pezzi.